L'appello nasce da un gruppo di insegnanti di una scuola della Bolognina, molto vicina anche proprio come collocazione a XM24, che frequentano insomma settimanalmente, quasi quotidianamente, il centro sociale da anni e che lì trovano, come molti degli abitanti della Bolognina, come molte famiglie dei nostri alunni, lì un luogo di socialità, di solidarietà molto forte e importante. Quindi, vista la situazione di concreta insomma minaccia di sgombero di XM24, abbiamo pensato di dare un segno di solidarietà concreta facendo questa petizione, a cui hanno risposto tantissime colleghe e colleghi del quartiere della Bolognina e di tanti quartieri anche che sono quelli della periferia di Bologna, da San Donato in tantissimi, dal Pilastro in tantissimi e anche proprio dalla città. Quindi è stata una risposta in diciamo poco più di 24 ore che ha già portato a una raccolta di più di 140 firme. Quindi insomma è un segno secondo me molto indicativo e interessante. E perché è indicativo e interessante? Perché come insegnanti della scuola pubblica ci sentiamo di remare nella stessa direzione verso cui rema un centro sociale come XM24, che è quello dell'inclusione, che è quello della solidarietà, della socialità, dell'aggregazione, della cultura diffusa anche per chi è escluso dal consumo, per chi magari è più fragile e vulnerabile socialmente, e che come nella scuola così anche in un centro sociale come XM24 si sente accolto, insomma. Questa era l'idea. Sì, una delle cose molto interessanti di questo appello è il modo in cui, diciamo, ribalta anche quella che è stata la narrazione un po' tossica, forse rispetto a XM, che è stata data spesso, quindi di un luogo di degrado che colpevolizza in qualche modo, voi questo lo dite molto bene nell'appello, le persone che lo frequentano e che ne fanno una realtà, diciamo. Esattamente questo, cioè per anni noi abbiamo assistito da parte dei mezzi di informazione e anche di personaggi politici che strumentalmente hanno utilizzato il tema del degrado proprio per screditare tutta invece la grande ricchezza regalata al quartiere da parte di XM24 con tutte le molteplici attività che offre e che abbiamo ricordato nel nostro appello. Una cosa tra altre, possiamo dire, basta frequentare il centro sociale il giovedì, il giorno del mercato di Campi Aperti, per rendersi conto che il degrado forse, di sicuro se si può parlare di degrado non si può parlare di degrado lì, lì è un luogo di aggregazione, di incontro dove vanno le famiglie per appunto, se è il caso, acquistare i prodotti di Campi Aperti piuttosto che per incontrarsi, ma ce ne sono, le iniziative sono tantissime, sono la scuola d'italiano con migranti, lo sportello di consulenza medica e giuridica, sono delle tantissime attività culturali che vengono offerte, tantissimi laboratori come abbiamo ricordato. Il concetto di degrado in questi anni è stato utilizzato per appunto screditare veramente XM24 e per fare di problemi sociali, fare della sofferenza sociale un problema di ordine pubblico, ed è qualcosa insomma che, come dire, noi come insegnanti ci siamo sentiti messi in difficoltà da queste strumentalizzazioni e per questo insomma abbiamo preso questa posizione, affermando proprio che al contrario gli amministratori locali dovrebbero rendersi conto della grande potenzialità che c'è appunto, che ha offerto XM24, non solo XM24, anche gli altri esperienze di autogestione, che in realtà hanno offerto delle risposte, addirittura a volte facendo da supplenti a carenze insomma dell'amministrazione, come luoghi di inclusione appunto e di aggregazione in cui dicevo prima, per cui cioè un grazie non è mai arrivato e abbiamo pensato di darlo noi intanto, ecco, sperando che arrivi prima o poi anche dalla politica. Sì, tra l'altro se non mi sbaglio, proprio in un incontro che di recente c'è stato a XM, uno dei tanti appunto di approfondimento anche, si citava come Bologna in tempo passato fosse stata per esempio la prima città in Italia a introdurre il concetto di tempo pieno per le scuole, no? Quindi un concetto anche rivoluzionario proprio per l'organizzazione e per la creazione in qualche modo anche all'interno della scuola, perché poi la scuola è uno di questi spazi di aggregazione ma non di consumo. Esattamente questo è il concetto, la scuola è un luogo che per definirsi la scuola pubblica, naturalmente un luogo per definizione accessibile a tutti, dove anzi si cerca di produrre le condizioni per cui tutti, a partire da chi è più vulnerabile e svantaggiato insieme a tutti gli altri, si crei insomma una situazione di socialità, di solidarietà e di comunità proprio, per dare possibilità a tutti poi naturalmente di accedere alla cultura, e dove appunto tutto questo avviene senza la mediazione del consumo, questo è certo. E Bologna sicuramente è stata per anni all'avanguardia proprio per la creazione del tempo pieno, ma poi anche in passato per le scuole dell'infanzia e per i nidi, che negli ultimi anni hanno subito un processo di privatizzazione, ma questo è tutto un altro capitolo, insomma.